Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia in diretta anche oggi dal Vinitaly, quindi padiglione 9, stand D3, C3, tra D3 e C3 nell'area del Chianti Classico. Parleremo anche oggi di vino, ma parleremo chiaramente anche e soprattutto del progetto per il cosiddetto fondo di stabilizzazione del sistema bancario, battezzato Atlante, forse anche per come immagine mitologica su quello che dovrà sopportare sulle sue spalle. Avrà una dote iniziale di 6 miliardi di euro e potrà intervenire nei prossimi aumenti di capitale, per esempio Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Su questo però c'è un'agenzia di questi ultimi minuti in cui i promotori di questo fondo Atlante, nella bozza preliminare del progetto, hanno appena scritto che in assenza di un intervento di sistema vi sarebbe un rischio concreto che le operazioni di Popolare di Vicenza e Veneto Banca non trovino pieno riscontro sul mercato, portando, in caso di mancato intervento del consorzio di garanzia, all'assoggettamento delle banche interessate a una procedura regolamentare di risoluzione, conseguentemente bail-in. Traduco: senza un intervento ulteriore, il rischio per Pop Vicenza e Veneto Banca è di essere nella posizione poco invidiabile di sperimentare per prime l'introduzione a livello di banche dell'area euro del bail-in. Quindi sappiamo cosa vuol dire che pagano le conseguenze in primo luogo gli azionisti, poi gli obbligazionisti di qualunque livello, e poi, se non bastasse, ne pagherebbero le conseguenze anche i correntisti sopra i 100.000 euro. È una ipotesi, è un allarme, non c'è nulla di concreto, è inutile creare allarmismo e panico, però va data come notizia nel giorno in cui la reazione del mercato non è che sia positiva al fondo. Perché? Perché ci sono timori che sostanzialmente non basti, non sia sufficiente. Tra l'altro, da quello che abbiamo capito sul fronte dei non performing loans, delle sofferenze bancarie, il fondo Atlante si concentrerà sulla parte più rischiosa, quelle junior, quelle non senior, non di buona qualità, da dove c'è più bisogno di una garanzia. E dove non c'è, per l'accordo preso con l'Europa, non ci potrà essere nessuna garanzia di assicurazione pubblica, e quindi rischiano di pagare prezzi altissimi, ben più alti di quelli di mercato. Ma dicevo della reazione della borsa: Intesa San Paolo meno 5,70, Unicredit meno 5, Ubibanca meno 4,80, Pop Emilia Romagna meno 4,40, Pop Milano meno 3,90%. E ancora Unipol meno 3,30%, più contenuto il calo su Monte dei Paschi, meno 1%, e anche sul Banco Popolare, meno 1,40%. Non c'è molto di positivo oggi a Piazza Affari, che perde l'1,90% ed è in netta controtendenza rispetto alle altre borse europee. È vero che ieri aveva strappato sui titoli bancari, però mentre Parigi guadagna lo 0,60% come Francoforte, Londra guadagna mezzo punto percentuale, e il Dow Jones guadagna lo 0,70%, Milano perde quasi il 2% per via proprio dei titoli bancari, l'1,90% è il calo dell'indice FTSE MIB. Tra chi è positivo, UX Net-a-Porter più 3,70%, Mediaset più 2,30%, Eni più 0,50%, Generali più 0,24%. Di questo parleremo nel corso del programma. Parleremo anche della missione, la seconda missione in Iran, che è iniziata oggi con il Premier Matteo Renzi, che hanno già presenziato la sigla del primo accordo che riguarda in primo luogo le ferrovie dello Stato italiano, che costruiranno in Iran due linee ad alta velocità, e l'intesa quadro di cooperazione firmata oggi a Teheran dall'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini e dal presidente delle ferrovie iraniane. Il valore dell'infrastruttura per creare due linee di alta velocità in Iran è di circa 3 miliardi di euro, ma faccio notare che il vertice tra Renzi e il presidente del Consiglio iraniano Rafsanjani vede anche la presenza della delegazione italiana. Domani mattina presto in Iran vi sarà l'incontro per il Business Forum Iran-Italia, vede la presenza di 60 industriali al seguito del Presidente del Consiglio, tra cui l'amministratore legato di Eni Descalzi, l'amministratore legato di Saipem Stefano Cao, Alberto Nagher, l'amministratore legato di Mediobanca, e appunto Renato Mazzoncini, numero uno delle Ferrovie dello Stato, Alessandro Castellano, numero uno di Sace, e anche Gian Pietro Benedetti, presidente e amministratore delegato del gruppo Danieli. Di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp. C'è poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo subito con i 100 secondi di Radio 24 del Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Il commento oggi del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti, e riguarda chiaramente il fondo Atlante annunciato ieri. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Il debutto, quantomeno in borsa, visto che ancora non esiste concretamente, del nuovo fondo da 5 miliardi per ricapitalizzare le banche in crisi e rilanciare il credito e soprattutto riacquistare i crediti in sofferenza dalle banche, ha avuto un'accoglienza a due velocità sui mercati finanziari. Prima un gran rimbalzo delle banche che ha fatto ben sperare su un'accoglienza calorosa dei mercati finanziari di fronte a questo tentativo da parte delle stesse banche, quindi senza un ruolo dello Stato, di poter risolvere i loro problemi. Ma che cosa è successo per compromettere poi nel pomeriggio l'intera seduta borsistica con l'indice FTSE MIB che ha perso quasi il 3%. È intervenuto il Fondo Monetario con una mazzata non prevista sulle prospettive di crescita italiane. Già erano state riviste un po' a ribasso nelle settimane scorse, ma le critiche del Fondo Monetario, soprattutto rivolte sulla crescita italiana, che a causa dell'eccesso di austerity e delle difficoltà nell'export sta risentendo del rallentamento più degli altri, quello è stato accolto come un nuovo colpo durissimo sulle speranze di ripresa non solo dell'economia, ma soprattutto delle banche. Andrà effettivamente così? I mercati finanziari in questo periodo sono ad alta volatilità, è difficile stabilire se una tendenza di un pomeriggio sarà quella della mattina, ma una cosa bisogna dirla, lo sforzo delle banche c'è stato, quello dei mercati ancora non si vede, quantomeno per comprendere che quello che sta facendo oggi il nostro sistema è il massimo alla luce delle risorse disponibili. Se non ascoltano i mercati, l'importante è che prima o poi ascolti l'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Così appunto Alessandro Platerotti, intanto saluto tutti gli spettatori, partecipanti e venitori che sono qua fuori dagli studi di Radio 24. Platerotti già faceva riferimento all'altra grossa notizia di oggi, il Fondo Monetario Internazionale che in effetti circa due ore fa ha tagliato non solo le stime di crescita a livello mondiale, sia sul 2016 che sul 2017, più 3,2% la crescita mondiale quest'anno, più 3,5% l'anno prossimo, ma ha parlato di un rischio di stagnazione secolare. Restano significativi rischi a ribasso, fra i quali quello di scivolare in una stagnazione secolare che nessuno si augura chiaramente, ma la buona notizia è che la Cina dovrebbe crescere più delle attese, 6,5% quest'anno, frenano invece ulteriormente Russia e Brasile. La Russia farà meno 0,8%, quest'anno meno 1,8%, meno 0,8% anche l'anno prossimo, e invece il Brasile farà meno 3,8% quest'anno e 0 l'anno prossimo. L'area euro anch'essa rivista a ribasso, più 1,5% e un più 1,6% nel 2017, tagliate anche le stime per la crescita degli Stati Uniti, 2,4% quest'anno e 2,5% l'anno prossimo. Per quello che riguarda l'Italia, come già accennava Alessandro Platerotti, la stima è di un PIL italiano che non andrà oltre l'1%, già nel documento economico finanziario, il DEF, il governo aveva scritto che si attende un 1,2%, ma è un 1,2% abbastanza ottimistico, non oltre l'1% quest'anno e non oltre l'1,1% l'anno prossimo. Crescita più lenta delle attese, sono tutte stime inferiori a quelle messe dal documento economico finanziario, e poi complessivamente dice che aumentano le chance a livello mondiale di recessione e deflazione. Chiede il Fondo Monetario Internazionale che la Banca Centrale Americana, la Fed, comunichi in maniera efficace i prossimi atteggiamenti nei confronti dei tassi di interesse, e avverte da un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea si potrebbero creare seri danni a livello regionale e globale. Un'altra notizia, se vogliamo positiva, è che il falco tedesco, presidente della Bundesbank, Hans Weidmann. Oggi, in maniera abbastanza sorprendente e incredibile, in un'intervista al Financial Times difende l'operato di Mario Draghi. Sappiamo che gli scontri erano stati anche belli dialettici, e dice: la politica monetaria espansiva di Draghi è appropriata, l'istituto è indipendente, non esistono solo risparmiatori, possiamo avere opinioni diverse, ma la politica di Mario Draghi resta appropriata. Ascolteremo dopo altre dichiarazioni per quello che riguarda Spending Review, e quindi veniamo ai temi di casa nostra. Vorrei solo ricordare come l'OCSE oggi, nella classifica del peso del fisco sui salari a livello mondiale, il famoso cuneo fiscale di cui si parlava molto anni fa, cioè la differenza tra quanto percepisce il dipendente e quanto costa invece il dipendente all'azienda. Beh, l'Italia è al quarto posto, ahimè, per cuneo fiscale a livello mondiale, ed è anche salita questa differenza, ecco perché poi si chiedeva modestamente una manovra più su tasse alle imprese e tasse ai lavoratori che sulle tasse alla casa, ma non voglio tornare su quella diversa prospettiva di valutazione tra la nostra opinione, quella dei nostri ospiti e quello che poi ha fatto il governo Renzi. Diciamo, la zavorra del cuneo fiscale comunque è cresciuta, siamo al quarto posto a livello mondiale, mentre in vari paesi è rimasta ferma, da noi sale al 49%, per cui praticamente dopo la Germania, in Europa ci siamo solo noi, cioè Germania 49,4, Austria 49,5 e Belgio 55%, poi arriva l'Italia. Volete anche commento sulle pensioni? Parleremo di pensioni nella seconda ora del programma, le dichiarazioni che ha reso questa mattina alle 24 il commissario per la Spending Review Gutgel, che ha negato alcun intervento sulla reversibilità, lo ha confermato anche poi il vice ministro economia Enrico Zanetti, e ascolteremo anche alcuni commenti che arrivano dal Salone del Mobile, perché oggi, mentre domani chiuderà i Vinitali, insomma oggi ha aperto anche il Salone del Mobile. Ieri ricordavamo sono i due punti eventi più importanti proprio nella stessa settimana per quello che riguarda il Made in Italy. Ma andiamo allora a parlare di vino, prima di arrivare al tema delle banche e al tema del Fondo Monetario Internazionale e delle pensioni italiane. In realtà lo facciamo oggi in qualche modo con un'affinità rispetto ai temi finanziari, sia bancari sia appunto di finanziarizzazione delle imprese vitivinicole. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, Focus Economia anche sul sito di Radio 24. E allora andiamo con il nostro approfondimento a cavallo tra vino e banche. Lo facciamo perché da questo punto di vista poi domani ragioneremo, avremo tutto un insieme di voci di produttori su come vanno i mercati esteri, il mercato interno, monteremo tanti produttori di diverse dimensioni, diversi vini, diversi mercati e diverse fasce anche di prezzo. Però oggi ringrazio per averci raggiunto in studio, da un lato l'avvocato Marco Giuri, che segue proprio le aziende del settore vitivinicolo leader, quelle che hanno la maggiore presenza sui mercati internazionali. Buonasera avvocato. Buonasera. E dall'altro, che mi farà anche da ponte sui temi bancari nella parte finale, Lorenzo Binismaghi, ex membro del board della Banca Centrale Europea, attualmente sia presidente della banca francese Société Générale che presidente di una banca più piccola, ma già il nome dice perché, qui si chiama Chianti Banca. Buonasera a lei. Buonasera. Binismaghi. E poi arriveremo anche a un commento finale su questo fondo Atlante. Dicevo che l'immagine mitologica non potrebbe essere migliore, comunque, visto che deve sopportare il peso di tutte le sofferenze bancarie italiane. Avvocato Giuri, noi abbiamo raccontato ieri l'Italia che è tornata prima come produzione, però attenzione sul valore, la Francia ancora ci dà dei gran numeri, ce li dà anche in Cina. Alcuni hanno protestato perché qualche operatore qui ha criticato l'organizzazione del Vinitaly. Ragazzi, non è che tutto va sempre bene, soprattutto sulla logistica. Nessuno ha chiesto, lo dico a chi sta scrivendo, di trasferire il Vinitaly a Milano. Una grandissima cavolata, l'ha detto ieri Toscani, ma può dire quello che vuole, insomma. Il Vinitaly ha un senso a Verona per tanti motivi, anche per il fuorisalone. A Milano ci provarono anni fa e fu un insuccesso totale, quindi meglio che ognuno parli di quello che conosce, lo dico anche con molta tranquillità a Oliviero Toscani. Ma detto ciò, ogni tanto parla così per creare notizia. Detto ciò invece, giuri, qui c'è un problema sui mercati esteri, vanno bene, vanno benissimo, lo raccontavamo ieri come mercati aggregati. Per carità, di tutela, però ogni tanto siamo ancora un po' sprovveduti sui mercati internazionali come tutela dei nostri. L'Italian sounding è molto difficile col vino, perché è una delle poche cose che in Cina non si produce, e in altri mercati, anche se c'è chi in California, ricordiamo la battaglia legale tra i Gallo della California e il consorzio del Gallo Nero in Toscana. Quali sono però i limiti ancora più forti che ha la tutela legale, l'approccio, diciamo, delle aziende vitivinicole anche sul fronte legale quando vanno su questi mercati? Come diceva giustamente lei, negli ultimi anni abbiamo avuto un grande sviluppo del settore dell'export e le aziende del vino si affacciavano quasi sempre senza alcun tipo di tutela legale, quindi senza alcun tipo di contratto. Qualche anno fa abbiamo elaborato un decalogo contro l'enopirateria, che è il fenomeno appunto di contraffazione anche dei marchi nel settore del vino, e abbiamo dato dei piccoli suggerimenti, come ad esempio contrattualizzare sempre questi rapporti, registrare i marchi, consigliando anche ai consorzi di procedere alla registrazione delle denominazioni, che all'estero evidentemente non sono riconosciute ma che necessitano di ampia tutela. Inserire chiaramente delle clausole a tutela per quanto riguarda il raggiungimento di certi target, la conservazione del prodotto, la conservazione e la tutela dell'immagine dell'azienda, e anche naturalmente senza mai dimenticare quelli che sono gli aspetti dei trasferimenti doganali e quindi delle norme di settore, e anche i pagamenti riferiti soprattutto a paesi particolarmente difficili come la Cina, con le famose lettere di credito o pagamenti anticipati. Succede spesso ancora nel settore del vino che importatori o distributori cinesi provvedano a registrare direttamente loro il marchio, sebbene il marchio sia del produttore, perché il produttore un po' in modo ingenuo si è affacciato sul panorama cinese senza alcuna tutela. Ecco, tra l'altro lo dico perché insomma faccio anche un minimo di pubblicità interna, lei ha organizzato con il Sole 24 Ore l'anno scorso il primo master in gestione di aziende vitivinicole. Il tema però dei diritti legali è un tema che vale anche sul fronte italiano. Adesso non voglio annoiare gli ascoltatori, ma c'è tutta una legislazione di settore su cui vi annoierei veramente, ma che è abbastanza complicata. Allora, noi abbiamo avuto la sensazione che, a parte i grandi marchi o i consorzi, qui siamo nel Chianti Classico, che hanno volumi, fatturato e anche mentalità, ancora nei migliaia di produttori medi, che pure vedono nell'export un motivo di sostentamento, inutile girarci attorno, ci sia un approccio un po' familistico, un po' improvvisato. Esattamente così. Diciamo che fino a qualche anno fa la posizione del fai da te era un po' dominante nel settore del vino. Adesso sta cambiando anche grazie a questo aumento dell'export, ma un'attenzione particolare a tutto il settore vitivinicolo. D'altronde la legislazione vitivinicola è una legislazione molto complicata, molto specifica e che necessita anche di conoscenze del settore. Se noi pensiamo che un'azienda vitivinicola ha a che fare con i registri di produzione, carico e scarico del vino, sicurezza del prodotto, ambiente, sicurezza del lavoro, i disciplinari di produzione, l'export e quant'altro, diventa particolarmente complicato. È importante quindi in questa fase anche di sviluppo del vino in Italia avere, come dire, la giusta conoscenza tecnica per poter supportare tutte queste difficoltà che riguardano l'azienda del vino. E giustamente, come prima diceva lei, anche con il Sole abbiamo organizzato degli eventi in proposito per cercare di sensibilizzare ancor di più i produttori e tutti i protagonisti del settore. Oh, se c'è un tema di diritti legali e di tutela dei marchi, c'è sicuramente un tema, Lorenzo Benismaghi, anche di credito nelle aziende vitivinicole. Anche qui bisogna distinguere, perché è difficile aggregare aziende così diverse. Le più grandi sono, come si dice in gergo, facilmente bancabili, anche perché il settore vitivinicolo in questi anni è stato uno dei pochi settori in Italia, forse l'unico, che non ha avuto mai crisi neanche nel 2009, quindi è facile dare credito ai grandi produttori con grandi volumi, con presenza sui mercati internazionali, con strutture anche interne. più difficile è darlo ai piccoli consorzi, alle piccole realtà di carattere consortile. Voi, e lo avete annunciato, se non ricordo male, l'altro ieri, dopo aver approvato un bilancio inutile, 7 milioni e un dividendo del 2%, avete incassato il sì dei soci alle fusioni con Pistoia e Area Pratese. Il patrimonio a quel punto crescerà ulteriormente, adesso se ho ben capito sono 310 milioni di euro, con l'80% di riserve indivisibili. E andate a questo punto a affrontare anche la riforma del credito cooperativo, siete la terza banca di settore e tra le 14 che potranno far scattare la famosa opzione del way out. Ma al di là di questi tecnicismi, creare una banca che si allarga e che lavora in un tessuto spesso a maggioranza cooperativa, che obiettivo finale ed ultimo ha al di là del way out o non way out? Alla fine l'obiettivo è quello di essere vicino a appunto queste realtà aziendali che hanno più difficoltà ad avere accesso alle grandi banche, perché se si parla di produttori vinicoli in particolare hanno bisogno di prodotti specifici e di conoscenze specifiche. Un produttore di vino deve tenere in cantina il vino per un periodo lungo, deve essere finanziato per quel periodo, ha bisogno di impiantare o di rimpiantare i vigneti, ha bisogno di ammodernare gli impianti, dunque ha bisogno di trovarsi di fronte un banchiere che conosce tutte queste problematiche e che gli offre dei prodotti sapendo bene qual è il prezzo giusto e quello che di fronte può pagare l'azienda. Dunque una vicinanza del territorio che forse le grandi banche non possono avere. Ecco, qual è la difficoltà maggiore quando si deve rendere bancabile, quando si deve fare un credito bancario a un'azienda vitivinicola non grande, cioè non così visibile? Bisogna capire quali sono le prospettive di crescita sui mercati, la qualità, quanto l'imprenditore poi crede nel progetto, il rapporto che ha con il territorio, ma anche con il sostegno delle associazioni. Insomma, bisogna conoscere bene l'azienda. Ma se io avessi un'azienda vitivinicola, cioè lei valuterebbe in maniera più interessante fatturato, volumi, oppure la mia presenza per esempio in un consorzio? Perché sappiamo che delle volte essere parte di un'attività consortile ti permette di superare, diciamo, sulla destra, di aggirare il tema dimensionale. Magari io non produco tante bottiglie, non ho dei gran fatturati, ma sono all'interno di un consorzio che invece fa dei numeri. Vi rende più... Sicuramente quello è importante, come il mercato estero, che è quello che dà la crescita, la cantina, che non è facile conoscere e capire. Per cui insomma, bisogna avere una capacità di conoscere appunto l'azienda da vicino, seguirla e capire quello che è il potenziale. No? Ecco, questo vuol dire che diventerete una banca praticamente specializzata, perché sappiamo che uno dei problemi nella valutazione dei crediti, che poi ha portato anche parecchie sofferenze, è che spesso gli imprenditori si lamentano, non sanno valutare il mio modello d'affari, perché magari si occupa di tutto chi ha in mano la gestione di questi crediti e non di settori specifici. Voi volete in questo modo rivendicare una specializzazione anche nella valutazione, per esempio, del patrimonio della cantina, che non è un elemento da poco quando tu devi fare del credito. Prego. Lo dimostrano i dati, noi abbiamo una percentuale di sofferenze molto più bassa della media, non solo toscana, non solo delle BCC, ma anche di tutte le banche. Dunque questo dimostra che sui fatti sappiamo valutare bene il merito di credito dell'impresa. A proposito del merito di credito, lei sa già dove voglio arrivare, perché insomma poi ne parleremo anche dopo il merito della pubblicità, però un suo giudizio, è stato molti anni nel consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, fa anche il presidente della Società Generale, la convince Fondatlante, per quello che si è capito, adesso vedo continuamente uscire agenzie, a mio avviso necessiterà ancora di un po' di approfondimento, ma insomma la convince la struttura che ha preso questo fondo, i 6 miliardi, la garanzia sulla parte junior? Prego. Ma cioè, è ancora presto forse. La domanda che forse è utile porsi è: fosse stato creato questo fondo nell'ottobre dello scorso anno, avrebbe aiutato o no? Io penso di sì. Forse dice prima del decreto sulle quattro banche? Sì. Perché il problema è coordinare una serie di imprese, di banche private per realizzare perché era un bene pubblico in realtà, sostituendosi al pubblico, e intervenire prima che lo Stato intervenga. Se questo coordinamento fosse avvenuto nell'ottobre scorso, molte delle paure che oggi hanno gli azionisti e i clienti delle banche non ci sarebbero. Ecco, io ricordo che il fondo, perché alcuni mi stanno scrivendo sugli aiuti di Stato, no, il fondo è un fondo privato perché è gestito dall'SGR di Alessandro Penati, la Questio, di Cariplo e ha tra i sottoscrittori le principali compagnie assicurative che metteranno sul piatto 1 miliardo, le fondazioni bancarie metteranno 0,5 miliardo e invece le banche 3 miliardi, una testa, Unicredit e Intesa San Paolo, e la Cassa Depositi e Prestiti avrà, come sarà capito, una quota minore per circa 600 milioni di euro. Il fatto che adesso alcune agenzie Vinismaghi dicano che in assenza di un intervento di sistema vi sarebbe il rischio concreto che le operazioni sulla Vicenza e su Veneto Banca portino al bail-in, vuol dire che questo fondo da solo non possiamo aspettarci che questo fondo da solo risolva tutti i problemi delle banche italiane? No, questo è per di nuovo dire, se non c'è questo fondo succede la stessa cosa che è successo in ottobre, e dunque è interesse di tutto il sistema bancario italiano contribuire a questo fondo, farsi parte, perché se è meglio intervenire prima che intervenire dopo, sostanzialmente questo è il messaggio, perché altrimenti il rischio sarebbe una nuova ondata di panico sul mercato bancario? Penso di sì, credo che appunto siamo arrivati un po' in ritardo. Tra l'altro io penso che il fatto che ci sia Alessandro Penati, che è una persona molto seria, a capo di questo consorzio, sia una garanzia anche, insomma, che l'operazione ha un senso. Poi il mercato deve capirla bene, ci vorrà un po' di tempo. Benismaghi, un'ultima domanda. Poteva fare di più il governo su questo fondo? Fermo restando che c'è sempre la spada di Damocle degli aiuti di Stato. Beh, il problema è che il governo entra oggi dopo la normativa sul bail-in. Di nuovo, il problema era 3 o 4 anni fa, forse. Ma perché, secondo lei, qui non c'entra neanche il governo Renzi, non abbiamo sfruttato la finestra dell'opportunità 3 anni fa? Buona domanda. No, dico... Ma perché noi siamo, cioè gli spagnoli l'hanno fatto, gli irlandesi l'hanno fatto, oggi si trovano tutti meglio di noi. I tedeschi lo fecero a suo tempo. Noi non l'abbiamo fatto perché noi pensiamo sempre di essere più bravi, no? Forse questa volta abbiamo peccato per orgoglio, purtroppo c'era anche un governo tecnico in quel momento che non voleva... Altri problemi? No, dice i tecnici siamo noi, è inutile fare ricorso ad altri tecnici, però poi in realtà i fondi non c'erano, anche se il costo di un salvataggio in quel momento sarebbe stato inferiore, credo, a quello di oggi. Inferiore. E i problemi di debito pubblico, alla fine abbiamo pagato più per salvare la Grecia di quanto non avremmo pagato per aiutare e gestire... Per dare i fondi di garanzia e gestire le Questa è una lezione per il futuro, meglio agire prima che agire dopo, appunto. Sì, la mia opinione è molto personale, quindi inutile è che ci fosse appunto un combinato disposto per cui le banche continuavano a ripetere che eravamo diverse le nostre rispetto alle altre, perché così si mantenevano anche con le amministrazioni, i presidenti che poi sono saltati, e il governo non aveva voglia di sentirsi dire che c'era un ulteriore problema oltre a quello del debito, anche nel debito o nel credito bancario. Sì, e poi la realtà è che chi interviene per salvare una banca poi viene criticato in modo drammatico, perché oggi è quello... Il risultato di questa crisi è che i contribuenti, i cittadini, non vogliono più mettere soldi pubblici per salvare le banche. Dunque le banche devono essere più solide e i contribuenti, i cittadini, ma anche i correntisti devono capire quali che sono le banche solide. Dunque devono anche farsi carico di capire, di scegliere bene le banche dove mettono i loro depositi. Vabbè, io penso che da questo punto di vista, diciamo, almeno da quello che vediamo noi, la percezione che la banca non sia, voglio essere ben capito, non sia più una garanzia a prescindere, diciamo così, con un bail-in in corso, ma debba essere valutata come banca, come qualunque altra attività di impresa stia passando nell'opinione pubblica, non so a che livello di percentuale di quota, ma stia sicuramente passando. In bocca al lupo per la vostra attività, intanto per la bancabilità delle imprese vitivinicole che ne hanno bisogno, a partire da quelle consortili, e anche per la consulenza legale, pure lì, lo dico agli imprenditori in ascolto, siamo arrivati delle volte un po' impreparati su mercati importanti, quindi grazie da un lato a Lorenzo Benismaghi, che insomma, vedremo se poi avrà altre dichiarazioni da fare, vedremo come andrà la banca. Io non gli ho chiesto il way out perché la penso... banca va bene. No, come andrà la banca nel futuro, che vada bene adesso lo so anch'io, ma mi interessava anche capire poi se opterete per il way out o no, avete deciso? Tanto non potevo non fare questa domanda. Sì, no, abbiamo deciso che sono i soci che decideranno, dunque presenteremo a 6 soci tutte le opzioni possibili. Allora, grazie a lei, grazie anche all'avvocato Marco Giuri, grazie. Meteo e pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Insieme per il vino, Confagricoltura, CIA Agricoltori Italiani, Federdoc, Assoenology. Focus Economia. 17:38 minuti, di nuovo in diretta qui dallo stand del Chianti Classico di Vinitaly, padiglione 9 C3. Adesso però non parliamo per ora di vino, ma parliamo di banche, e lo facciamo con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Sì, buonasera a voi. Ecco, già con Lorenzo Benisma, che avevamo affrontato un suo primo commento personale, e parlare di banche oggi vuol dire parlare anche di voi, se lo dico chiaramente, nel senso che il commento al mercato è questo: meno 1,60 Milano contro Parigi che fa più 0,70, Francoforte che fa più 0,80 e Londra è più 0,70. La dice lunga sull'andamento diverso oggi di Piazza Affari, con Unicredit che perde il 5,15, Ubibanca il 4,40, Intesa San Paolo meno 4,11, Pop Emilia Romagna meno 4, Pop Milano meno 3,60%. Marco, vista così uno potrebbe dire vabbè, avevano strappato ieri con rialzi fortissimi, oggi prevalgono i realizzi. In realtà a noi è sembrato, anche da alcune dichiarazioni di questi di questo fondo Atlante, che ricordo adesso lo raccontiamo, dotazione di 6 miliardi, l'abbiamo spiegato prima, potrà intervenire nei prossimi aumenti di capitale, per esempio Veneto Banca o Pop Vicenza, in caso di inoptato, cioè di se rimane una parte dell'aumento di capitale che non viene sottoscritta, e anche e soprattutto interverrà nei crediti deteriorati, i cosiddetti non performing loans, le sofferenze bancarie, quindi con una capitalizzazione inizialmente di 6 miliardi, interverrà in questo caso sulle tranche di peggiore qualità, e quindi le cosiddette junior, dove non c'è una garanzia dell'assicurazione pubblica. Che cos'è che sta lasciando così perplesso il mercato, Marco? Ma sì, anzitutto dobbiamo dire che la seduta oggi è stata positiva fino a un paio d'ore fa. Probabilmente, anche devo dire, stiamo interpretando proprio in questi momenti lo scostone che si è avuto intorno alle 4, probabilmente da imputare ad alcune informazioni che sono emerse gradualmente, che in parte anche avevamo scritto sui giornali di oggi, e cioè che la dotazione del fondo di fatto è variabile, una forchetta come si usa ogni qualvolta si lancia un fondo, che ha un minimo e un massimo. Ebbene, sui documenti, i primi documenti relativi al fondo Atlante, si legge che la dotazione sarà compresa tra 3 e 6 miliardi. Evidentemente questa è una forchetta che preoccupa il mercato, nel senso che l'efficacia dello strumento è probabilmente legata, almeno questo è il ragionamento che si fa sul mercato, alla dotazione patrimoniale, ed evidentemente la possibilità che ci siano soltanto 3 miliardi, perlomeno in una prima fase, potrebbe lasciare qualche perplessità, e così si spiegherebbero le vendite, che però, come giustamente dicevi, arrivano dopo due giorni in realtà di acquisti, quindi di fatto ci saranno sicuramente anche un po' di riposizionamento. Scusami Marco, ma se ho ben capito, la perplessità è perché noi sappiamo che questi 3 miliardi, un miliardo a testa è per Unicredit e Intesa San Paolo, la perplessità è capire quante altre banche vorranno entrare in questo fondo, perché insomma, se lasciamo tutto a Intesa e Unicredit non è che si vada molto distante. Sì, esatto, diciamo anzitutto che il termine per aderire è il 28 aprile, quindi vuol dire che da oggi fino al 28 si accetteranno scommesse, diciamo così. 28 aprile, peraltro, termine per la prima fase dell'aumento di capitale di Popolare Vicenza, quindi non è un termine casuale. Come dicevi giustamente, gli impegni, diciamo, certi sono di Intesa Unicredit, un miliardo a testa. Per il resto si sa che mezzo miliardo dovrebbe arrivare dalle fondazioni, diciamo dovrebbe, perché bisogna vedere caso per caso. I singoli consigli di amministrazione si sono riuniti o si riuniranno, quindi ad oggi questi soldi non ci sono, il resto arriverà da compagnie assicurative. Oggi per esempio il numero uno di AXA in Italia ha detto che AXA parteciperà con una quota al fondo, e da altre banche. Ieri pomeriggio alle 18 si sono incontrati i consiglieri delegati delle prime 13 banche italiane. Certo è che noi oggi non sappiamo ancora la dotazione esatta, e questo potrebbe in qualche modo preoccupare il mercato. Anche perché prima operazione, si diceva, in cui probabilmente interverrà è Popolare Vicenza, l'aumento di Popolare Vicenza da 1 miliardo 750 milioni. È chiaro che se tu dovessi partire con 3 miliardi e dovessi usarne la metà o addirittura qualcosa in più su Popolare Vicenza, le munizioni a disposizione sarebbero poche per gli altri aumenti e per i crediti deteriorati. Ed è chiaro quindi il ragionamento. Devo dire che al di là del mondo bancario oggi in borsa, per carità, dopo gli aumenti di ieri si è salvato solo Yux Net-a-Porter che ha fatto più 3,50%, c'è un accordo con Tiffany per la vendita di gioielli in esclusiva, e poi sull'effetto Vivendi ancora bene, media 7+2,60%. Monte dei Paschi, devo dire che è l'unica banca che in questo è andata in maniera assolutamente divergente, +1,16%, positiva anche Tenaris +0,70%, Eni +0,50%. Invece sul fronte lusso devo dire che dopo i risultati sotto l'attesa del colosso Louis Vuitton Moanessi ne hanno risentito anche Luxottica -1,30%, Ferragamo -2%. Concludo con i titoli Exor che ha perso 4,30%, Telecom Italia 4,70%, Finmeccanica -3,5% come Anima Holding, ST Microelectronics -3,30%. Euro su dollaro quota quasi 1,14. Grazie Marco Ferrando, andiamo sul traffico e poi l'approfondimento sulla missione iraniana, la seconda missione iraniana, 60 imprese a seguito del Presidente del Consiglio. Focus Economia. Allora, la missione in Iran, dicevamo, già firmato oggi memorandum of understanding per quello che riguarda le ferrovie dello Stato italiane che costruiranno due linee ad alta velocità, valore dell'infrastruttura più o meno 3 miliardi di euro, ma ci sono, a seguito del Presidente del Consiglio, l'incontro di oggi con Rafsanjani e domani mattina alle 9:30 invece anche Renzi prenderà parte al Business Forum Iran-Italia, dove vi sarà anche il ministro degli esteri iraniano. Vi sono 60 industriali al seguito, tra cui Eni, Saipem, Mediobanca, Ferrovie dello Stato, Sace e Danieli. Vorrei parlare delle prospettive con chi domani, tra l'altro, inaugurerà un nuovo osservatorio economico proprio sull'Iran. Lo inaugurerà Nomisma e siamo in collegamento con Andrea Goldstein, che è managing director di Nomisma, si trova a Teheran in questo momento. Buonasera Goldstein. Buonasera a lei. A che cosa dovrebbe servire il nuovo osservatorio, cioè ad accompagnare le imprese italiane anche con dati di analisi più specifica, oltre che di accordi quadro, di memorandum of understanding come stiamo vedendo adesso? Beh, esattamente, a cercare di capire un po' meglio questo paese così complicato perché è ovviamente un paese che esce da una situazione politica internazionale e locale difficile degli ultimi anni per una serie di motivi, ma è complicato perché tutti i mercati emergenti sono per definizione complicati, se ne sa poco, bisogna cercare di capire un po' meglio come funzionano le istituzioni, come funzionano le regole, come si sta cercando di costruire un mercato, lo vediamo in altri mercati emergenti che è un processo duro e per quello che abbiamo visto come investimenti, chiaramente l'Iran ha un piano enorme di investimenti, 20 miliardi di dollari per il petrolio, vuole portare la produzione fino a 5 milioni di barili, oggi ne produce 3 milioni di barili al giorno, e raddoppiare la capacità produttiva del gas da 220 milioni di metri cubi a 400 milioni di metri cubi. Però c'è tutto anche il fronte infrastrutturale, oggi prima parlavamo delle ferrovie dello Stato, che vale quasi quanto tutto il fronte petrolifero, 15 miliardi di investimenti in dollari. Assolutamente, perché l'obiettivo poi dell'economia iraniana è quello di diversificarsi nel corso del tempo, di diminuire la dipendenza dalle risorse energetiche, che comunque sono prima o poi esauribili come in tutti i casi. Quindi le autorità in più devono cercare di garantire dei standard di vita crescenti alla popolazione, i ceti medi che hanno votato nelle ultime elezioni massicciamente per i riformisti, addirittura a Teheran 15 dei 16 seggi sono stati vinti dai riformisti, ma che ovviamente si attendono poi un miglioramento delle condizioni di vita, da qui la necessità di migliorare lo stato dell'infrastruttura. Lei come sa, Teheran è una città con un traffico bestiale, con un inquinamento altissimo, quindi la qualità della vita è una preoccupazione dei ceti medi a Teheran come ovunque. E infatti devo dire che nel piano di investimenti previsto appunto di carattere infrastrutturale ci sono sia i porti e le ferrovie, ma anche le strutture aeroportuali e 5 miliardi di dollari per ampliare la metropolitana di Teheran, quindi metropolitana e alta velocità. Quante persone lavoreranno nel vostro nuovo osservatorio sull'Iran, Goldstein? Ma il team a Bologna è di poche persone, ma l'idea è soprattutto di cercare di costruire un hub, un centro d'eccellenza. Ci sono tanti italiani in Italia e soprattutto in giro per il mondo che si occupano in qualche maniera di Iran, e l'obiettivo è proprio di cercare di mettere a servizio del paese, delle imprese, delle istituzioni tutta questa conoscenza. viviamo in un mondo sempre più leggero, quindi è giusto che anche stando da Bologna ci si possa raggiungere con delle reti lunghe, delle risorse italiane che stanno in nel mondo, e il nostro italiano ovviamente. Allora, grazie anche Andrea Goldstein in collegamento con noi da Teheran. Adesso c'è GR24, poi raccontiamo la filiera del vino, dall'agricoltore alla cooperativa e a poi il produttore distributore finale. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30. Su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Insieme per il vino, alleanza delle cooperative agroalimentari, Federvini, Unione Italiana Vini. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta dal Vinitaly, seconda giornata di diretta dal Vinitaly, come ricordavamo anche prima del GR24. E se ieri, anche in parte oggi, abbiamo raccontato come sempre storie di produttori, da questo punto di vista, quindi sia dimensionalmente che geograficamente rilevanti, chiaramente non possiamo che scegliere un microcosmo, un microcampione come ogni anno. Oggi, in questo ultimo approfondimento, vorrei concentrarmi sulla cosiddetta filiera. Che cosa si intende per filiera? Beh, insomma, è l'insieme dei passaggi che portano, diciamo, dal campo e dall'uva alla bottiglia finale, se vogliamo dire in maniera un po' prosaica. In realtà il tema della filiera, come in ogni settore produttivo, è importante, perché dentro la filiera si genera valore, ma con una filiera mal organizzata, troppo lunga e dispersiva, si distrugge valore. La filiera tipicamente in qualunque settore produttivo va dal fornitore di servizi o subfornitore di servizi o manufatti fino al prodotto finale e la sua commercializzazione. È chiaro che in un settore così particolare come il mondo del vino partiamo dal campo, se mi permette, e quindi saluto da un lato il presidente della CIA degli agricoltori italiani, Dino Scanavino. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Da lì andremo poi al mondo cooperativo, che rappresenta comunque il 58%, se non ricordo male, della produzione del vino italiano secondo l'ultima indagine. Quindi ringrazio anche la dottoressa Lorenza Sant'Andrea, che è la coordinatrice del settore vinicolo dell'Alleanza Cooperative Agroalimentari. Buonasera. Buonasera. E poi andiamo alla bottiglia, diciamo, al prodotto finale e alla sua commercializzazione. E ringrazio a questo punto il presidente di Federvini, nonché presidente del settore legato di Masi Agricola, Sandro Boscaini. Buonasera anche a lei. Buonasera. Federvini riunisce non solo i produttori di vino, perché ci sono anche i liquori, distillati e aceti. Allora, partiamo proprio dal campo, se mi permettete, diciamo, l'esemplificazione molto schematica. Da questo punto di vista, dicevo, in tutte le filiere che noi osserviamo il rischio di dispersione del valore è alto, e sappiamo che nel mondo vitivinicolo il rapporto non sempre è stato lineare tra produzione, diciamo, esigenze del produttore e esigenze poi di chi realizza la bottiglia. Su due fronti, per esempio, il produttore tende a vendere e a conferire l'uva per produzioni dove vede il prezzo più alto, ovviamente. Chi ha in mano la distribuzione e il marchio non vuole inflazionare la bottiglia. Faccio un esempio su tutti: il caso dell'Amarone è abbastanza eclatante, in cui c'è la tentazione di produrre anche del prosecco, se vogliamo, visti i numeri, di produrre tantissimo, e questo è chiaramente l'interesse dell'agricoltore. Però poi, se tu saturi inflazione la produzione, non garantisci la qualità, i prezzi crollano e soprattutto non si capisce più, vista la divergenza di prezzi a parità di tipologia di vino, non si capisce più quale sia il reale valore. State cercando di trovare un maggior coordinamento tra, diciamo, monte e valle? Sicuramente. Intanto 385.000 sono le aziende che producono uva in Italia. Questo dà già il dato di quanto sia complessa la platea, no? Noi abbiamo bisogno di equilibrio, equilibrio sulla filiera, e quindi è interesse dei produttori di uva, che sono quelli che subiscono più di altro le oscillazioni di mercato, a essere compresi in un circuito organizzato che ci consenta di lavorare con serenità. La cooperazione, dirà Roenza Sant'Andrea, la cooperazione è uno degli elementi, forse il principale elemento, che fino ad oggi ha garantito in qualche modo una certa linearità. Stanno avanzando nuove forme di aggregazione, ma sempre di aggregazione si parla, che hanno degli elementi di modernità, che comunque incrociano o la cooperazione o aziende che fanno la parte della lavorazione e poi della vendita. Noi le stiamo sperimentando tutte, ma dobbiamo comunque puntare ad un'aggregazione e a dei progetti di filiera che tengano assieme il sistema e lo tengano in equilibrio. Questo è il nostro interesse. Ecco, andando però poi al di là, diciamo, della formula, questo che cosa vuol dire? Perché nei progetti che possono tenere assieme la filiera, tutte le parti devono un po' cedere qualcosa, mentre a noi è sembrato alle volte di vedere anche un po' di contrapposizione. Sì, dove ci sono accordi interprofessionali, diciamo così, di cessione delle uve alla cooperazione e all'industria su alcune tipologie di prodotti italiane, il reddito che oscilla ovviamente in relazione con come va il mercato, però in qualche modo viene garantito ai produttori di uva, no? Che quindi possono fare il loro investimento. Ma c'è anche la progettazione del vigneto, perché il vigneto è una scommessa difficile, cioè se noi 5 anni ci vogliono che vada a reddito. 5 anni, ma poi è destinato a durare altri 30, per cui noi non è che dopo 5 anni possiamo cambiare varietà. Sì, si può fare. Quindi noi abbiamo bisogno di accordi interprofessionali. Io credo sia questo il ragionamento su cui dobbiamo ragionare: accordi interprofessionali tra i produttori di uva, le loro cooperative o le loro società o associazioni e il resto della filiera fino ad arrivare al mercato. Certo, la grande distribuzione non la possiamo trattare noi, perché ecco, già dalle sue parole però capiscono gli ascoltatori quanto complicato sia il mondo del vino, che noi lo rappresentiamo sempre in maniera unitaria. In realtà, secondo me, voi avete un problema enorme di rappresentanza, cioè io ho difficoltà delle volte a far capire agli ascoltatori che cosa significhi il ruolo delle cooperative, il ruolo dell'agricoltore. Adesso l'abbiamo spiegata nella maniera più semplice possibile, poi se arriviamo ai produttori anche a livello associativo, e c'è Federvini, e c'è Unione Italiana Vini, e c'è quello che non entra, e c'è quello che esce. Insomma, quando il ministro Martina ci dice, insomma, delle volte abbiamo difficoltà a trovare un interlocutore unico almeno per ogni passaggio, non ha, il ministro dell'agricoltura, non ha tutti i torti. E venendo al mondo delle cooperative, giusto per far capire che cosa significhi il conferimento vini, il conferimento dell'uva alla cooperativa, in Veneto il 50% del Prosecco DOC è prodotto da cooperative. Il Valpolicella siamo al 62%, il Soave all'80%, il Custoza al 53%, in Trentino 3 bottiglie su 4 sono del mondo cooperativo, e in Toscana e Piemonte, con dati leggermente più bassi, però il 50% del vino nobile di Montepulciano, il 42% del Dolcetto in Piemonte, e il 90% in Emilia Romagna del Lambrusco, il 100% in Lazio della DOC Vignanello. In Puglia abbiamo sostanzialmente l'80% della produzione che arriva dal mondo cooperativo. Sono 493 le cooperative in Italia nel settore vitivinicolo, 4 miliardi e 300 milioni di fatturato con 8.700 addetti. Delle volte, dottoressa, la sensazione che il mondo cooperativo pensasse un po' al breve e non riuscisse a calmierare le esigenze anche legittime e comprensibili del produttore di uva con una visione un po' più di medio termine, per cui citavo i casi Prosecco e Amarone, ma giusto come esempio, cioè non tuffarsi a pesce sulla moda, ricordando appunto che l'investimento in vino ci vuole 5 anni a metterlo a reddito e poi è un investimento che deve fruttare per 30. Non dovreste avere un ruolo ancora più spinto nel far, diciamo, nell'intermediare con le esigenze dei vari conferitori? Io credo che sia corretto, più spinto, e bisogna che ci riusciamo anche. Dal punto di vista intanto della rappresentanza, mi piacerebbe dire che noi la semplificazione l'abbiamo fatta, perché come Alleanza Cooperativa adesso parliamo una voce sola, tutte le cooperative italiane, mi sembra che non sia una semplificazione da poco. Poi la filiera tutti assieme ha fatto un tavolo, e per quanto riguarda il vino, con una, diciamo una associazione che non ha aderito, però insomma direi che ormai c'è un mondo attorno al tavolo del vino, e anche questo rispetto a quello che è l'agricoltura italiana non mi sembra una novità di poco conto. Per quanto riguarda la cooperazione, sicuramente quello che lei dice è importante, però se facciamo l'esempio che sono stati richiesti per le nuove autorizzazioni 66.000 ettari, non sono tutti quanti richiesti da soci di cooperative, credo che noi potremmo essere più in grado di contenere o di comunque di guidare, no, quelli che sono i nuovi impianti, tutte queste cose qui. Beh, c'è stato fatto questo negli anni, sicuramente la nostra filiera è quella corta nella cooperazione, perché dal socio che produce, e lei tenga presente che abbiamo 2 ettari in media, questo è un grosso problema. Nel senso che si sono messi assieme per produrre e i mezzi della produzione sono insieme, e quindi voglio dire ci sono delle cantine che stanno diventando sempre più grandi, ma questo essere grande non mi sembra un gran peccato, perché credo che sono quelle che sono arrivate all'estero e in maniera importante. Poi ci sono anche dei produttori singoli, ci mancherebbe, io anzi tanto di cappello, però credo che queste aziende che portano fuori l'80-90% del prodotto italiano facciano una bella strada. Ecco, giusto per complicare le cose, dopo il traffico vorrei capire da lei però qual è anche il rapporto con i singoli marchi, e cioè noi abbiamo per esempio le tipologie di vino che citavo prima, una fetta molto grossa che è frutto delle cooperative, conferimento delle uve alla cooperativa, poi però ci sono dentro ognuno di questi vini ci sono dei grandi produttori che hanno un nome molto forte, che hanno delle volte anche avuto il ruolo di aprire la pista in vari mercati, e lì il rapporto è abbastanza dialettico. Vorrei capire come può appunto diventare ancora più costruttivo dopo il traffico. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, dell'ultima giornata di Focus Economia in cui saremo in diretta qui dal Vinitaly a Verona, nei nostri studi. Ci chiedete dove siamo, Padiglione 9, C3, ma insomma fra meno di un quarto d'ora non ci saremo, D3. Ma tra poco meno di un quarto d'ora non ci siamo più. Dicevo, con la coordinatrice dell'Alleanza delle Cooperative per il settore vinicolo, Lorenza Sant'Andrea, il rapporto tra cooperazione, cioè tanti piccoli soci che conferiscono, e i grandi marchi, chiamiamoli così, i grandi nomi del vino, delle volte è stato un rapporto difficile, nel senso che da una parte c'era la spinta a produrre di più, loro invece volevano ridurre perché per avere magari giustamente più margine anche nella vendita, e quindi... Io credo che sia anche abbastanza naturale. Da una parte c'è chi trae dal suo sostentamento, da quello che è la produzione, dall'altra c'è chi deve cercare di fare marginalità e vendere avendo un apprezzo corretto, e questo secondo me sono tensioni che abbiamo avuto e penso che avremo sempre. Dal punto di vista della collaborazione, secondo me però, io non sottovaluto che alcuni di questi grandi marchi hanno fatto delle belle strade all'estero e in Italia per quanto riguarda le denominazioni in cui lavorano, e questo ha trainato tutta una serie di cose, e dall'altra parte c'è anche da parte delle cooperative, degli agricoltori, anche della fornitura in parte su queste aziende. Quindi credo che alla fine, al di là di quello che può essere una dialettica, che secondo me ci sta, insomma, mettiamola così, credo che alla fine non ci sia poi questo problema. Poi dopo magari lo dirà meglio Boscaini. No, facciamoglielo dire subito, perché lei Boscaini è sia rappresentante, diciamo, della parte confindustriale del vino, chiamiamola così, che ha un grande marchio, perché Masi vuol dire sia Sergio Alighieri che Masi. Lei è stato soprannominato Mister Amarone, ma anche un po' di retorica su questo, però va bene, no, sto scherzando, che ha scritto un libro molto bello su di lei. Però insomma, l'Amarone è un caso classico. Voi avete fondato le famiglie dell'Amarone in qualche modo per distinguervi dalla produzione normale di Amarone. È venuto fuori uno scontro abbastanza anche duro, che aveva come oggetto la quantità da produrre, mettiamola tutta in questo modo. Voi chiaramente avete interesse nel mettere un tetto, e anche un tetto abbastanza basso, alla produzione, perché vi garantisce qualità e quindi margini, quindi avete un Amarone che in giro per il mondo è più o meno la stessa cosa, e le cooperative avevano più pressione di no, c'è molta richiesta per Amarone o per Prosecco, aumentiamo la produzione, con il rischio che ormai per esempio nel Prosecco non si riesce più a distinguere a livello di prezzo tra la DOC e la DOCG, quindi non oso pensare il consumatore cosa possa capire se vede due bottiglie di una cosa che si chiama Prosecco che costano quasi uguale, una c'è la G in più. Allora Boscaini, come può diventare collaborativo una cosa che invece delle volte vi ha visto in contrapposizione? No, io penso che può essere collaborativo, lo è stato per tanti anni, lo è in parecchie zone d'Italia ancora, Dopo ci sono dei casi in cui, devo dire, per non tanto sulla questione della quantità più o meno, perché anche nel caso della Marrone tutti gli anni noi siamo a cercare di, non noi, il sistema Marrone, cercare di diminuire la quantità perché è già in esubero. Il punto vero è di chi si accolla la responsabilità della difesa del marchio, dei due marchi, il marchio collettivo, cioè la denominazione, e il marchio individuale. Ma tutto questo passa anche da una valutazione intrinseca del prodotto. Nel caso della Marrone, bisogna dirlo, esiste una zona classica fatta di cooperative piccole e di tanti piccoli produttori e produttori medi, grandi, non c'è nessuno, devo dire, ecco, che ha portato avanti nei decenni questa immagine. Ci sono dei nuovi player che non discuto dal punto di vista della qualità del prodotto, eccetera, però hanno una visione un po' diversa, cioè la Marrone è quello che mi fa magari fare i soldi per sanare un contesto di altre denominazioni che oggi non fanno soldi. Ecco, è lì dove io vedo francamente quella che lei diceva, una veduta a breve. La Marrone è un prodotto di punta, è un prodotto simbolo di tutta un'enologia che è quella venete, più in generale della grande enologia italiana. Sì, io non volevo, cioè, vale anche per il prosecco, cioè bisogna trovare, a mio avviso, in questo momento, io vi ho visto ancora l'elemento di fragilità in questa filiera che stiamo raccontando, a mio avviso arriva nella parte finale, cioè quando tu hai a che fare con grandi marchi che giustamente perseguono le loro strategie di mercato, commerciali, così, e invece hai la massa dietro. In un rapporto virtuoso tu avresti grandi marchi che, come si diceva prima, magari aprono la strada, si collocano nella fascia alta, entrano nella distribuzione o entrano nella ristorazione di quei paesi, e poi dietro riesci a garantire anche la massa critica. Questo se c'è un accordo, perché se invece uno va a rubare quota all'altro siamo alla giungla, Boscherini. Certo, e l'accordo deve venire su una valutazione della corretta ripartizione del valore aggiunto. Se non facciamo questo ragionamento non arriviamo da nessuna parte. È chiaro che chi ha tutta la filiera in mano, e buon per loro, potrebbe in teoria anche accontentare solo la parte di filiera che ha, ma non può ignorare che esiste un'altra filiera, che esistono altri utilizzi del valore aggiunto, che sono molto semplicemente detti così: a parte l'utile, che c'è, ci deve essere a tutti i costi e ripartito senza dispersione della filiera, come lei diceva prima, ma poi c'è l'investimento in promozione e immagine, importantissima. I francesi ci spendono il 20% mediamente sull'immagine e sulla promozione del prodotto. Noi dobbiamo, se vogliamo arrivare a prodotti di punta, dobbiamo fare altrettanto, indipendentemente da chi sia. E chi deve pagare per la promozione? Il singolo marchio, la cooperativa, chi? Deve pagare chi si prende la responsabilità della distribuzione del prodotto, ma tante cooperative lo fanno, non è detto che tutte non lo fanno. Anzi, in particolare lo fanno quelle che partono con marchi con delle menzioni deboli. Secondo me però lì, Boscherini, ci siamo ancora poco, glielo dico, perché poi io capisco l'esigenza del marchio importante, dice no, ma perché devo fare una promozione complessiva con tutti, voglio andare io come Barisoni, perché io faccio il miglior Brunello, il miglior Amarone, il miglior, e quindi sono d'accordo anche con la Sant'Andrea, un po' è fisiologico, mi dice solo, visto che siamo in estrema, è fisiologico, però riduciamo, perché i francesi invece, quando c'è da dire, fare massa critica e promuovere un decidono se bisogna portare Barisoni o bisogna portare Boscaini o le cooperative. Al volo, perché siamo in chiusura, dottoressa. Guardi che si possono fare degli accordi di produzione, certo. e che tengono conto di quello che sono i bisogni del produttore e i bisogni di chi va sul mercato. Noi di queste cose ne facciamo. L'importante è farle e rispettarle, cioè che ci deve essere la fettina di tutti, ma sono impegni che vanno presi e poi vanno rispettati. Questo lo facciamo, e lo facciamo anche in tantissime occasioni. Boscaini, per concludere, perché stiamo sforando il tempo massimo, a proposito di rappresentanza, Federvini da una parte, Unione Italiana viene dall'altra, io neanche cerco di spiegare agli ascoltatori come mai esistano due, non sarebbe il caso prima o poi di arrivare a una fusione? Adesso c'è una gara per l'elezione del nuovo presidente in Unione Italiana Vini, tra Rallo, Antonio Rallo, quindi donna fugata, e chiaramente Ettore Nicoletto, e quindi Santa Margherita e Cara del Bosco. No, devo dire che è un tipo di competizione sana che porta sul tavolo una piattaforma di, diciamo, di istanze che dovrebbe portare a una chiarificazione con l'intento vero, e io lo auspico veramente, di fare come hanno fatto le cooperative, e non so perché no, non lo possiamo fare noi. Cioè un'unica, cioè, di avere un'unica, anche se poi alcune hanno altri servizi eccetera, giustamente, come ha l'Unione Italiana Vini, è un discorso, ma noi dobbiamo avere una voce unica, un'unica rappresentanza su questo. Grazie, grazie appunto a Sandro Boscaini, a Lorenza Sant'Andrea, a Dino Scanavino, come sempre grazie a Barbara Bianchi per l'assistenza qui in studio al Vinitaly, a Davide Cioccia per l'assistenza in bassa frequenza e a Filippo Aureggi per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.